E beh, Antone! Prova! Ola! Ola! Ola! E c'è Carlo! Attivo, Luca da questa parte, ancora buonasera! Ho capito! Luca! Ah, ciao Lu! Buonasera! Giovanni, che sto provando l'apparecchio, c'è che l'apparecchio me lo affermo! Come sto uscendo? Sì, ti sento abbastanza bene. Prova a fare un passaggio. Ok, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ok? Sì, 6, 9, 10 con una buona radio. Da tanto tempo, è già 6 mesi che l'ho fermo. L'ho provato a accendere, adesso vedo se funzionava. Allora va bene, va. Fa piacere. Pensavo che non usciva più. Ma il Midland che ce l'ho io, l'anno 48 era spento almeno 10 anni, eppure l'ho acceso e va tranquillo. Ah, oh, questo è nuovo, l'ho preso l'anno scorso, è il 5005, questo qua. È bello, questo che c'ho io è sempliciotto, c'è 40 canali in AM e in FM, non c'è altro. E questo è completo, questo c'ha anche le bande, ce l'hai. Anche il piano, da tutto questo qua, capito? Questo già sei bande però, Non sei uscito, Luca? Come non sono uscito? Adesso sei uscito, prima no. Adesso sto provando a muoverlo in tutti i modi. Adesso va bene, adesso va benissimo. Dicevo che mi sarebbe piaciuto avere una radio un po' più performante, perché sento tante volte stranieri, gente da fuori, ma la sento un po' distorti, magari avere una regolazione sul fine, perché magari arriva a regolare un po' di frequenza o andare sulle bande laterali o chissà come stanno trasmettendo. Con questa invece è la base proprio. Ok. Ma non c'è più nessuno, è raramente che c'è qualcuno, certe volte accendo, ma non c'è nessuno. Tutto morto. Io ripeto, accendo quasi una sera. Siccome sono sempre su 23, forse magari su 23 che non c'è nessuno, magari su 10 invece c'è qualcuno sempre la sera. Là. Io esco da lavoro alle 5:30, arrivo, accendo e c'è sempre qualcuno che chiacchiera sul 10, sempre. No, ma parlo di stranieri, oggi sentivo francesi che arrivavano forte, inglesi che arrivavano forte, riuscivo a capirli appena, ma la voce era tutta distorta, magari avendo un altro tipo di radio e spostandoti di frequenza, regolando sul fine, avrei potuto anche chiamarli. Prima io li facevo i 10, ma adesso no, non ce ne più voglio, ma anche l'età è... Niente, una parola. Non è che li fa più, capito? Sì, accendo qui certe volte, magari ascolto, però a parlare non mi fa più. Forse perché ci sono troppo, Sembra che ci sia da parecchio, non sono 2 giorni, no? Sembra che siano 54-55 anni più. E io sono rientrato da poco, dopo che non trasmettevo da fine anni 90. Diciamo che probabilmente ho spento nel 98, ecco. E dopo tanti anni ho provato a riaccendere. Prima tiravo la testa per il paracchino, capito? Perché è una vita che ce l'ho e mi piace abbastanza anche a fare gli ex. Ma adesso ho una certa età, non sono più un ragazzino, per cui anche l'età è... E non ce n'è più voglia, capito? Era la messa accendo, no? Ecco, tutto lì. Comunque, ogni tanto magari conviene accendere almeno per farli scaldare, se no si rovinano. questo è dopo l'apparizio, l'ho preso l'anno scorso. Non lo conoscono, no, non conosco tutti i nuovi usciti, sono rimasto alle vecchie radio di quel tempo. C'ho anche la Faiente, c'ho anche le Zodiac, ho avuto apparecchi, ho avuto anche le Galaxy, ecco. Ha avuto anche altri apparecchi, però altri tempi magari là che faceva piacere accenderlo, ma adesso non c'è più nessuno, e poi magari tu sarai più giovane anche di me, magari e ancora c'hai voglia di chiacchierare, dai. Classe 69. 69, non so pochi. 89 ne faccio il 10 febbraio. Caspita, complimenti. Me ne lascia 30, non è poco. Vabbè Luca. Oui, buonasera. Ciao, con chi stai parlando? Perché non lo senti? No, non sento niente. Ah, il nominativo con la persona che sto chiacchierando non lo so. E non so neanche da dove sta trasmettendo. Non lo so, lo sento solo a te. Aspetta che lo chiamo. Dottore, c'è ancora? Come si chiama, dottore? No, dottore perché non so il nome, mi ha detto solo che è una persona di 89 anni che accende la radio ogni tanto per scaldare i condensatori. Di 89 anni ce ne sono pochi a Sassari, dici mica, non lo so chi è. Domani chi è che sta parlando con Luca? Che non ho sentito niente, non mi sente a me. Mister, c'è ancora che non la sento più. Evidentemente quando ho sollevato il volume io stavi parlando tu. Non l'ho sentito. Vabbè, a posto. No, adesso mi sto mettendo il dubbio che non stavo parlando da solo. Mi sa che chiamo il neurologo a vedere se ho le apparizioni. È colpa mia, io ho sollevato il volume e stavi parlando tu. Ho detto con chi stai parlando, chi c'è? Sentito, non so, vabbè. Marecco, avanti. Ciao Claudio e ciao anche l'amico Luca, forse ci sono sentito una volta. Già lo conosci quello che stava parlando, stavo anch'io appena acceso, no, ma qua è la forte, 9+20, è uno degli anziani, non facciamo il nome, forse è il più anziano di quelli storici Cibicla. E allora, se non è Giulio era Gio Maria. No, volevo dire, ma dovrebbe essere lui, dai. Se ti sta ascoltando, ciao Gio Maria, e ti ho sentito un attimino, un piacere di sentirti. Ciao Claudio, ciao Luca, che forse ci hanno sentiti di recente. Roberto da questa parte, di nuovo a te Luca. Cappa, mi fa piacere aver parlato comunque con un'istituzione che mi ha detto che modula da qualcosa come 55 anni. Vabbè, tanto rispetto. Ciao Roberto, anche a te, ben sentito. Luca, sono quelli vecchi che hanno iniziato. Io ho iniziato nel 1975, non ho 89 anni, ma anch'io ho la mia età di modulazione. Nel 1975 da Porto Torres e poi mi sono trasferito a Sassari nell'83, ma ho sempre modificato modulare nel 75. Loro sono quelli storici, Sergio Maria lo saluto anch'io, buonasera, ma non so se è lui comunque. Quell'età ce l'hanno loro, lui, Giulio, poi chi c'era, non mi ricordo adesso più, vabbè. Ok, comunque Robè, fate tutte le prove immaginabili, cambiate PL, controllate il cavo pezzo per pezzo, tutto, poi consultate anche Fabrizio, c'è l'antenna in corto. Quello che hai detto io, la prima cosa da verificare è l'antenna. Ecco, le antenne lasciamo perdere. Al primo inverno, alla prima passata di vento e di acqua, ci vogliono prese e buttate nel cassetto della mondetta. Ci vogliono antenne più performanti, costano poco, vabbè, c'è da dire, ognuno fa quello che ci riesce a fare con i soldi, però non valgono niente. La prima libecciata si tocca in due, già lo sai più di me che già ne hai visto tanto. Io infatti sono sempre di quelli di vecchia scuola. E tu Luca, a proposito, che antenna stai utilizzando? Il modello è il 63, Non mi lamento più. 6348, se non sbaglio, della Alberec, un nome del genere. No, parlo l'antenna, non la radio. APK, antenna della Alberec, mi sembra che si dica. Modello 6348, forse, alta 6,20 e una mezza onda. Ah, quindi una bella antenna, per quello sta arrivando forte. Quasi 9,40 qua arrivi. Tu se non sbaglio eri in zona via Rockefeller, quella zona lì. Capa Roger, zona via Rockefeller esattamente, diciamo tra via l'Italia, via Budapest e via Rockefeller. Sta arrivando la bomba, 9,35 con i picchi arrivi 9,40, vabbè, già siamo di fronte uno all'altro. Claudio, di nuovo a te, purtroppo è così, cosa ha deciso l'amico di Giucla? Brecca! Abbassa le volte. Esatto, ti faccio entrare subito. Niente, oggi non potevamo fare niente, siamo stati anche fortunati che abbiamo finito di saldare il piede, di fare le prove, è iniziata a piovere di rotto. Quindi adesso aspettiamo una mattinata buona, scendiamo l'antenna e guardo che cosa c'ha, capito? Può essere anche qualcosa sulla bobina, entrata acqua, vediamo, la devo aprire e controllare. Se è una cosa fattibile da mettere a posto, la metto a posto. Altrimenti la compra nuova, non è un problema, no? Non ce ne sono problemi. La radio è perfettamente funzionante, l'ho provata. Antonio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tu. Ciao Roberto, buonasera. Fai Luca. Eccolo. Ciao, buonasera Luca. Buonasera Antonio, ben sentito. E Luca, invece la radio che cosa stai utilizzando? Un Alan 48 rugginoso che ho riverniciato a bomboletta perché faceva pena. E c'aveva veramente la ruggine. Gli ho messo un po' di convertitore e poi la bomboletta nero lucido. Oh, una grande, bella anche la modulazione, bella chiara, pulita. Ok, beh, Anto acqua non la stai prendendo tu, Antonio non c'è più, vai Cla. Eia, va bene. E quindi nulla, sì, lo so, quelle antenne sono soggette perché frettano tantissimo quando c'è il vento, capito? Essendo un tubo unico, proprio lì si era spezzata a San Rottile. Quindi prendendo molto vento, flette lì e siccome lì il cavo che è bobinato, c'è una bobina, quel cavo è tutto avvolto alla bobina, poi sale dritto su. Se si è rotto lì sotto dove c'è la bobina, dove c'è l'occhiello, perché all'interno c'è un occhiello, chiaramente non c'è massa, è incolto l'antenna, capito? Tutto qua. Vabbè, comunque a me mi interessava sapere se la radio era tutto a posto, ho controllato tutto. La radio è perfettamente funzionante, dicevo la grande, ma è molto più selettiva della mia, evidentemente ha lavorato anche poco con la radio. Va bene, rimettiamo il cambio per Antonio allora, dai, poi lasciate un attimo di bianco, non so se vuole entrare Gio Maria, se era lui, non lo so, vai Antonio. Vai un attimino che sto cambiando il bambino. Vabbè, dammi un rapporto di segnale, che arrivo con la zona. Prova da me. Cosa? Da me stai dicendo. No, da Roberto. Un po' meno di cosa, 9,30 appena di più del 9,30 con i picchi 6, però un segnalone spaventoso, abbassa la radio che mi serve in disordio, sei troppo forte, forse sei da lontano che stai parlando con l'amplificazione sollevata. Vai a un attimo al bambino. Stavo dicendo, Luca, c'è anche un nome oltre c'è un nominio da CB o così come me, Roberto? Come stazione ho messo Floppy per distinguermi dall'altro Luca, perché eravamo in due omonimi sullo stesso canale. Infatti, adesso, anzi prima c'era anche un altro di Luca, della zona di Lima Delta, dai, non l'ho più sentito da tanto, lui Luca ogni tanto già lo sentiamo, dai. Ok, vai Cla. Gappa, no, ma anche qua Luca sta arrivando, 9,25 è quello col segnale più alto di tutti, tenendo conto che io lo sai dove sono adesso, se fossi stato in via La Maffa mi arrivava a fondo scala, perché ce l'ho davanti via Rockefeller, quella zona lì, sono più avanti, tempo più ce l'avevo davanti, però anche qua c'è un ottimo segnale, gli altri sono tutti tra il 9,10 e il 9,20, 9,18, quando attacca, adesso cosa l'ha attaccato Antonio? Se non arriva così, capito? Perché già vuole io che attaccato, se non arriva 9,10 Antonio, invece 9,20. Abbondante, va bene, no, funziona bene comunque. faccia lì da parte, però io vado sempre, te l'ho già spiegato, con questi K, questi cable di qua di vecchia generazione, questo è il 140, ma c'ho anche il 440 che però... Una volta che te lo chiedo, se mi ascolti... Lo tengo qua in banda amatoriale, in 10 metri. Va bene, a te il cambio, Luca. Io passo un attimo in bianco perché è una bassa con la 50, a fra un po'. E a cosa sei sceso, Cla? Alle 10:20 ero già a casa sua, 10:30, abbiamo fatto su perché ho detto facciamo subito la prova dei PL, messi PL nuovi, l'ho portato io, quindi PL buoni, lunghi, lui c'aveva quelli corti, però non sono i PL. Abbiamo fatto la prova prima dentro, svitando la ghiera, lasciando solo il puntale, la ricezione è perfetta, attaccato dentro, avvitato, saliti su, staccato il puntale, la stessa, la frettatura del PL, solo col puntale la stessa cosa. Stazionarie, non ti dico cosa c'è di stazionare, gli ho bruciato tutto. A 4, quasi a 5 ce li aveva. E anche a me me era successo quando c'avevo l'avanzo, me lo ricordo, quando era successo quel problema, ma poi ho risolto, ho ricostruita tutta da zero, ribobinata, PL nuovo, saldato, con le viti passanti, anziché mettere quelle cagate di riviti. Una domanda, ti stavo dicendo, che cavo c'ha? Che cavo sta utilizzando? C'è un 58.000 simile all'H100, già è buono come cavo, c'ha una doppia calza abbastanza grosso, puntare rigido, per i metri che c'ha lui c'ha 10 metri il cavo, no? Va benissimo, ho capito, è un peccato cambiarlo, va bene, ma c'è il cavo, i PL sono nuovi, quindi adesso, adesso che mi chiama lui una mattinata, si prende una mattinata libera e come fa tempo buono si prende una mattinata libera, non ci va a lavoro, e lo facciamo, scendo, buttiamo giù l'antenna, l'apriamo tutta, la controlliamo, vediamo un po', se è una cosa, ripeto, come ha detto Fabrizio, che si può fare, ma controlla le parti della bobina, sicuramente è andato in corto lì, il problema è lì, se si può fare gliela riparo, altrimenti se l'ordina nuova. Ma lì nella zona sua c'è un bel vento, adesso non so esattamente lui dove abita, ma il vento quando vuoi maestrale, lì tutti i venti da nord li pigliano in pieno. Tutti li prende lui, prende le vante, prende il greccale, prende l'imbecio, tutti li prende, è lì nel rettilineo degli leoni, è figura di lui. Maestrale non ne parliamo, ma l'imbecio, il greccale, le vante li prende in pieno lui anche. Ma com'è l'altra l'antenna? C'ha il palo alto? No, l'antenna è sopra l'antenna TV, quindi ci arrivi con la scala, ci arrivi con la scala, l'abbiamo anche abbassata l'antenna, quindi viene bene anche lavorarci, tranquillo, non ci sono problemi, capite? No, poi ho finito non troppo tardi perché me l'ha fatta abbastanza effetto, però poi ho fatto altre cose, ho detto non utile, gli do la parola, poi non sarei potuto venire perché poi ho fatto la spesa, ho trovato degli amici eccetera e ho tardato un pochettino, poi sono arrivato a casa, in barrio che erano le 11 e qualcosa, ho detto cioè che passo a trovare un'altra persona e basta. Ok, io sono passato qua un attimino, ho sentito la tua voce, la voce di Luca e poi di credo dalla cosa mi sembrava Gio Maria prima, infatti non ho capito, forse si è allontanato, che lo risalutiamo se c'è ancora e basta, perché sto facendo come ti ho detto quell'award, quel diploma e sono piazzato bene, devo arrivare almeno a fare i 2000 punti, così me ne mancano pochi, così ti danno il coso silver. Brecche? Ehi, avanti Brecche. Ok, buonasera Gio Maria, e poc'anzi ero con Luca e ho dovuto mollare tutto al telefono. Comunque vi saluto con la buonasera, dai, riprendi cavio. E allora Geri, tu mitico, ha detto 89 anni, infatti sono, non riuscivamo a capire, ma io poi già l'ho intuito, ho 89 anni, il più anziano che è rimasto è Gio Maria, poi Giulio, eccetera. Ciao Gio Maria, ben ascoltato dopo tanto. Infatti sono entrato, ho sentito a Luca, ho detto vabbè Luca, con chi sei? E poi non ti sei più sentito. Ciao Gio Maria, buonasera, ben ascoltato. Dopo tanto tempo, avanti, Roberto, per salutare Gio Maria. E Maria, ciao Giovanni, io ti abbiamo riconosciuto, poi nel frattempo senti, si è allontanato, infatti ho salutato, tanto tempo non ci sentiamo, un piacere riascoltarti, non a 100, a 140, perché 100 ormai sono pochi per le persone, dai. Ho sentito che a febbraio, mi sembra, se non sbaglio, cos'era, 89, 80, 80, cioè ne 88 e vai 89 o vai a 90 a febbraio? A febbraio 10. K, di nuovo a Guruni, vabbè, non si fa nell'anticipo, però intanto sempre un piacere, dai. Ho chiesto passatevi un attimino a ascoltare, a sentire, a salutare, perché ero da altre parti e continuo adesso, ritorno dall'altra parte che sto facendo le cose, come ho detto a Claudio. Ti saluto Gio Maria, Claudio lo stesso, idem anche a Luca e Antonio Bombolo che l'ho sentito poco fa di sfuggita. Io passo da altre parti, ciao di nuovo a tutti, anche chi fosse in ascolto. Ciao Roberto, ci si aggiorna più tardi magari, dai, Luca è al telefono. E quindi Gio Maria, tutto bene? Comunque, ciao Roberto, ci sentiamo, alle prossime. Ha una cacciata foglia, non l'avevi saputo, quello che era successo in casa. No, Gio Maria, sono assente, qua ogni tanto entro a salutare, a farmi due chiacchiere, ma anche io giusto per far scaldare queste vecchie baracche, capito? Se no, amico Roberto, stiamo sempre mandando materiale, cosa è successo? Roba grave? Non ce ne più voglia qua, non ce ne più voglia, ecco. E anche forse l'età e poi più quello che era successo, per cui... E ogni stasera accende così a vedere un po' se funzionava ancora. Allora, non ho voglia, non ho più voglia di parlarci, capito? Chissà perché mi ha stata così. Mentre prima qualche volta l'accendevo, anzi molto spesso anche. Mentre adesso non viene voglia, ecco, tutto lì qua. Comunque, ha fatto piacere, ho risentito, dai. Riprese. Anche a me Giovanni mi ha fatto piacere, mi spiace queste cose, ci picchia. Vabbè, purtroppo quando abbiamo girato io sono rimasto un po' di anni proprio che non ne accendevo neanche, poi ho visto che c'è sempre rimasto qualche amico, allora ogni tanto entro a farmi una chiacchierata perché qua sono nato e quindi è giusto anche così non abbandonare i vecchi amici. Va bene, avanti Antonio, cambiato il bambino. Tanto. E Antonio non riprende, dai, lo saluto comunque se rientra. Hanno suonato il campanello, per cui lascio quello qua. Ma faccio piacere, ho sentito, dai, buon proseguimento. Buon questione, ciao anche a Luca. Non mi ricordo l'altro chi era, ciao Cla, ci sentiamo alle prossime. Ciao Giovanni, un abbraccio grande, ogni tanto fatti sentire a senatore che ogni tanto già entra qua a salutarci. Ciao, buon fine settimana, grazie per essere entrato, ciao. Ok, chiudo, ciao a tutti. Cosa vai tu? Cos'è? No, nessuno ai tiri. Claudio, buonasera. La tua gine, ricordo, ci intendi a ventola. No, la caldaia si è attaccata, Claudio. Cazzo, ne vado in bocca, brutto. No, più adesso se non hai tre moto hai fatto cosa, là. Vabbè, già va bene. Sto a posto, Daniele. Tutto a posto, dai, ci possiamo lamentare, Claudio. Per peggio ci teniamo questo. Ma infatti hai detto per peggio e peggio, meglio così. Bene, mi stai ascoltando? Benissimo, Cla, benissimo, c'è un leggero QRM, però già... Mi sto ascoltando bene, tutto a posto, tutto è chiaro qua. La radio è sempre quella, perché anch'io lo sto usando poco questo circafuso, la radio è quella, sì. E si conferma, Cla, non hai cambiato una virgola, va bene. Anche tu stai spingendo una meraviglia, col 44 sì? E si conferma, col 44, anche se c'è un leggero problema, non so se nel cavo quel cacchio di antenna, perché intanto sono le stazionarie e vai a accordare, non accorda, adesso ho riaccordato, vabbè sta anche piovendo, e quindi non lo so, da dipende, sino a ieri non c'era niente e oggi si è svegliata così. Ma non ti preoccupare dell'accordatore 440, perché anche a me a volte accorda, a volte non accorda, io mi preoccupo che cos'è l'antenna, siccome il 440 io ce l'ho in 10 metri, capito, che ce li ho tutti e due, c'ho la linea come la tua, il 140 e il 440 lo uso in 10 metri, e ogni tanto vado ad accordare e cazzo non accorda. faccio il cagucì, perché non usandolo, mi ha spiegato Fabrizio, che c'ha dei buchi granati sotto, che c'è un sistema particolare, magari si inchioda e non accorda, non fa il giro e non accorda, capito? Lo so, caro, lo so. Però anche con la T250 non stavo accordando, vabbè che erano un po' di tempo fermi tutti quanti, con i tassi ricca, non stavano lavorando e tutto, e quindi adesso tengo tutto sotto controllo, perché in giro 10 minuti, mezz'ora, un po' accorda, un po' non accorda, un po' va, un po' viene, non lo so. No, la T250 io ce l'ho qua, io sono stagionato a 140 e mi è collegato, cioè, proprio uno rapporto a uno, neanche, manco ci muove perché ha già accordato e non ci sono problemi, perciò quello funziona benissimo, però lo devi usare, Daniele. Lo so, però col tempo che ho io a disposizione, mi oggi un po', però non coincidono gli orari, diciamo, quando vi trovo, capito? E guarda, che ore sono? Le 6:15, più o meno noi entriamo verso quest'ora, ma dipende, magari entro anche più tardi a fare due chiacchiere, ma in questo periodo già la sto usando la radio, dai, piano piano, bisogna usarla perché altrimenti la usai. Cosa succede qua? Si conferma e poi si inchiarà tutto il macello. Vabbè, adesso mi faccio questi quei giorni più libero. Faccio 3 giorni liberi, adesso vediamo cosa fare, se riesco a entrare mezz'oretta in più in radio e vedere un po', là, giusto per farmi due chiacchiere e fare andare anche le radio. Vabbè, c'è la Mantova adesso lì, no? Sì, c'è la Mantova lì, passata, e niente. E niente, e lì già si è preso un vento dei giorni scorsi, pioggia e troia. Ma la Mantova non gliene fa, non le crea problemi. Io una vita, ho iniziato con la Mantova 1, ci è rimasta una decina d'anni sul tetto, poi era uscita la Mantova 5, avevo preso la Mantova 5, anche quella lo stesso, una vita. Poi avevo, quando ho trasloccato, avevo messo la Mantova 1 e da lì ho preso la Mantova 1, la carburante l'ho piazzata qua e sempre va bene, è un'antenna, una signora antenna, no? Non ne ha di problemi, va bene. E si conferma, questa è l'unica che va e prende dappertutto, diciamo, riesco a ascoltare bene a tutti e via dicendo, dappertutto, capito? Perché prendo, faccio ascolto e ascolto benissimo dappertutto. Pure veramente, veramente lei va. No, io ho già contattato negli anni che la migliore antenna, guarda, questa Game Master ha colpito ancora, stamattina ero da un amico a fare un intervento perché pensavamo che erano i PL, invece abbiamo fatto i PL nuovi e niente da fare, ho attaccato lo strumento, 5 di stazionale, l'antenna è in corso, col vento che ha fatto deve essere piega perché frette molto, deve aver rotto qualcosa all'interno, una gaggata di antenna, cazzo, 180 euro di antenna, guarda, li avrei sparati, cazzo, chi l'ha progettata. Ho capito che antenna stai dicendo, quella che ho provato anch'io, che ce l'avevo anch'io. No, quella bianca che a Sassari mi pare ce l'ha solo Giulio adesso, ma Giulio io l'ho vista, ce l'ha bassa, va bene usarla così, ma quando tu la metti in un punto alto, in un punto che prende un sacco di vento, l'antenna flette tanto e ti crea problemi, l'aspetto. L'ho mandata in corto all'interno, adesso appena fa tempo buono scendo, la abbasso, vedo che cosa c'è all'interno, se si può riparare, se no se la compra nuova, ma compra un altro tipo di antenna, capito? La Game Master, sono quella tenuta per poco tempo io lo stesso. Ce l'ho ancora, la verità ci dica. C'è la terza d'Angelino adesso, sempre lì. Però se c'è un abisso, cioè con l'altra che c'avevo prima, cosa era quella, la Energy, la Energy 58 mi sembra che non quella andava, poi vabbè si è rotta come si è rispettato l'ultimo pezzo del faro che era sottile dal vento e l'ho dovuta cambiare e qui avevo preso quella, ma c'era un abisso, anche se quella era andante proprio con quella vero, poi ho trovato questa e ho messo questa. Hai fatto bene e non hai sbagliato, io non la cambierò mai la mantova, capito? Ne ho altre due, ho altre due piantoni e me li tengo, sai quanta gente me li ha chiesti? Mi ritengo perché può succedere qualsiasi cosa e sono già pronti. Tanto il problema può capitare nel piantone, può andare in corso all'interno, ti può spezzare il filo, eccetera, ma è difficile. È difficile, però ce l'ho l'altro piantone e me lo tengo, non si sa mai, capito? Tutto qua. Va bene, va bene. Daniele, ti lascio un attimo. A proposito, ma il drone non lo stai più usando? Il drone, sì, ogni tanto lo faccio viaggiare qua col superfata, con tutto, lo facciamo viaggiare. Ah, sempre in 45? Sì, al 45 o anche qua ogni tanto, quando metto a fare proprio, così del genere, lo attacco, lo faccio andare, capito? Non lo attacco da altre parti. No, da altre parti lascia stare, che sennò lo bruci. Io usato ed è un signor pezzo, quindi tienitelo bene, usalo col baracchino e basta. Devo andare anch'io a accendere la caldaia, Daniele, che sono già le 6:10, se no Olga si muore da rovreddo. Lascia le radio accese e ci sentiamo dopo, intanto fra un po' entra anche Gianni. Ehi, Claudia, dai, già sono qua, non c'è problema, come sento movimento già riattacco anch'io, faccio il acceso, c'è problema. Attenzione, ascolta Antonio Baramobile, gaffa! Mi, Antonio Baramobile, c'è Antonio, sta andando ad accendere la stufa, c'è Daniele a Itiri, non lo so se ti sente. Mettiti piazzare segni e vedrai che già ti sente, o al centro ecologico dove eri ieri, io vado ad accendere la stufa. Cazzo 9 mi stai arrivando, Daniele, 9, siamo distanti noi, perché io non ti vedo. Stai arrivando, esce 9 con questa radio la paura, bella, non tocchi, eh? Rientrato, saluti Antonio, saluti Daniele, Luca Floppi da zona Rezzetto. Ciao Luca, ben ascoltato, lì da questa parte, coordinate IT. Claudia, io sto andando con quarantina di fatto, non di più, il microfono è al minimo, a uno ce l'ho. Te la conosci questa radio? E niente di più, niente di meno, tutta la strada facendo, va bene, meglio così allora, ottimo per la truppa. Va bene, a te il microfono Luca. K, Antonio non lo sento più, io ero in bianco perché c'avevo una telefonata della signora che mi ha messo sull'attenti. E niente, sono rientrato ora. Come arrivo a Itiri, che è la prima volta che ci sentiamo? Per la primavera, sì. Qua sei un segnale, sì, radio buona, dai. Va bene. Che zona sei? Via Italia per caso? Sì, sono all'uscita di Via Italia. Cavala, ma stai arrivando abbastanza bene qua. Ultimo per la truppa. Io spero anche nelle tue coordinate sia contraccambiato. Sento Daniele, accorsi Antonio. Daniele, ti chiamava Antonio ma forse non lo senti. Sì, qua arrivi con un segnale di 9 e un'ottima radio. Io sto uscendo con 4 watt del baracchino omologato, un Alan 48 di 30 anni almeno. Va bene, meglio così allora. Benissimo, anche la radio è molto buona, è bella. Va bene. Poco fa c'era anche Antonio Bombo, se non sbaglio. Sì, c'è Antonio, ma non lo senti. Antonio, prova a fare un passaggio per vedere se Daniele ti ascolta. Sento Daniele, ascolti Antonio. Antonio, negativo, non credo che Daniele ti ascolti, perché non ti risponde. No, Antonio, chi stai dicendo però lui? Antonio è in Baramobile. Penso sia... non lo so, nominativo, la verità. Antonio Bombolino, sono! Che Antonio stai dicendo? Bombolo! Ciao una strana, non vedo perché, nel movimento è. Antonio, in che zona sei? Nel monte! Daniele, faccio da ripetitore, si trova in zona monte. Ma Antonio Bombolo è? Cappa. Cosa sta arrivando? Come mai? Sono in Barrabbe, barrata la mente, lì, ma può rovinare però. È in barra mobile e probabilmente non riesce a uscire bene. Ah, ecco perché, se in BM non deve trovare la posizione giusta allora. Perché ho sentito due minuti fa, devo cambiare il bambino. Adesso non arriva più, è quello che è successo qua. Anche a me arriva basso, arriva in mezzo al QRM, magari in mezzo ai palazzi e non esce come deve. Se andando magari in piazza dei Segni, magari riesce a arrivare bene anche da te. Cava, cava, meglio così, va bene, va bene. Cava, perché so che lui arriva qua, io ci ascoltiamo, capito? Ascolto tutti qua, gli stati li ascolto tutti. O quasi tutti, anche più che meno, dipende poi da QRM e altre cose. Quando modulavo, siamo quasi 30 anni fa, da Itri trasmetteva, mi sembra di ricordare, si chiamasse Gianni, un tecnico riparatore che aveva un laboratorio che riparava TV, stereo, queste cose così. Sì, anche quando abitava a Sassi ci ho modulato con lui tante volte, io a voglia. Però quanto fai adesso non lo sento più. Quindi non te lo so dire se sta facendo ancora attività o che cosa. Chiacchierava molto col povero Mario Mansell. Sì, già non me lo ricordo queste cose. Veniva anche con noi al 10 tutti quanti a parlare, a voglia. Già va bene, anche perché io abitavo lì lo stesso, zona dell'Italia. Però la mia antenna, cioè c'era una tova turbo, ma era stata una tova 5, era un po' in condizioni precarie era. Abitavi in zona di casa e io stesso avevo la mantova 1 sul tetto quando modulavo a quel periodo. Poi di quella mantova 1 ho trovato un radiale sul tetto e l'altro radiale l'ho trovato l'altro giorno in garage. Il resto dell'antenna non mi ricordo che fine aveva fatto. Come sempre. Sì, io abitavo prima dove, adesso non so, vabbè, per l'Italia dove c'è la sala della, che c'è la palestra. Palestra in Viale Italia. Sì, l'ex negozio Wind. No, non ho capito, non ce l'ho presente. La Vodafone, ce l'hai presente, distributore. Cappa, sì, ora ho capito, sì, ora ho capito, esattamente, di fronte all'IP, io sono in quella zona lì, e mi ricordo che c'era un ragazzo che modulava da quei palazzi intorno, che faceva musica, era un musicista, suonava il flauto traverso, se non sbaglio, e come nominativo era Sguscio. Può essere, però di quanti anni fa stai parlando lui? Fine anni 90. Una cosa del genere era, c'era qualcuno lì in quella zona, forse è stato vicino a quello dell'edicola se non sbaglio. E lui abitava da Via l'Italia scendendo in via Rockefeller, più giù del tabacchino sulla sinistra. Ho capito che stai dicendo, sì, quei palazzi russi. Più o meno, sì, dietro quei palazzi russi, più o meno era lì, si vedeva la sua antenna dal distributore Eni di via Budapest. Ho capito. Ho anche dimenticato, adesso mi hai fatto ricordare. Un ricordo di un bel po' di anni fa. Lui suonava con un gruppo che si chiamavano i Cuba Libre e quando faceva serata nei locali me lo diceva: guarda Luca che suono lì, se ti fa piacere avvicinarti. E allora con qualche amico andavamo a sentirci la serata e a bere qualcosa e facevano bella musica. Chiamava all'epoca. Tanto grande e tanto piccolo, là, ero ragazzino ancora. E io me ne andavo quasi per tra i 25 e i 30 anni, già ero grandicello già. Io forse 90 e qualcosa stavo appena iniziando a modulare. e poi io avevo cambiato lavoro, e poi la verità c'era stato l'avvento delle chat di Tiscali di quel periodo, e dopo le chat è arrivato Facebook, eccetera. C'era molto rumore in tutte le ruote perché era pieno di troppa gente forse, e poi cambiando lavoro e non avendo più orari perché avevo preso a fare il rappresentante, avevo mollato tutto. E da poco, parlando con qualche amico, mi ha detto: dai, rientra, dai, riprova. E allora ho riacceso. E è stato bene, io guarda, non ho mai tolto niente. Io anzi ho sempre continuato, anche se non sentivo nessuno, sono sempre acceso, cosa, e non ho mai tolto. Adesso di nuovo, vedi, sono venuto qua, io a due anni a questa parte, mi rifatto un po', tutto ripiazzato. Capito? Lasciate lo stesso, era tutto piazzato. Niente, non hai mai tolto niente. Anzi, ampliato sì, ma tolto no. Sento Daniele, ma cosa? C'è Antonio che tenta di chiamarti sempre. Qua non sta arrivando, magari lui a me mi ascolta. Bombolia, mi senti a me? Vediamo, tu. Devo mettere la truppa, devo mettere. E niente, vi state sovramodulando perché uno non sente l'altro e quindi vi state chiamando a vicenda, ma evidentemente non siete a portata uno con l'altro. Stavo dicendo lui, ma lui mi ascolta? No, no, negativo. Daniele. Sicuramente è troppo in basso, allora, ma per farci non sta arrivando. Aspetta che fra un po' già mi senti. Ha detto che si sta spostando e fra un po' lo senti. Arrivare, insomma, al minimo indispensabile per superare un po' il QRM, perché è proprio intrappolato lì. E ha detto di aspettare un attimo che si sta spostando e fra subito lo sentirai. Va bene, va bene. E qui adesso che antenna stai uscendo lui? La mia antenna è una... aspetta, te lo dico il nome, se non lo leggo Albrecht 6348, è un'antenna mezza onda di semi 3,20. Brava. Va bene, la sta facendo il suo lavoro, io a voglia. Pagata relativamente poco perché alla fine è un'antenna che costa 63 euro. Ehi, vabbè, però piano piano, però quanto fa il suo lavoro, lo sta facendo alla grande, e qua sta arrivando bene lo stesso. Ho avuto paura quando c'era l'allerta meteo che me la facesse in quattro pezzi, perché obiettivamente è abbastanza fine, però ha retto botta. Quello sì, anch'io. Anche ho avuto paura perché insomma non ce l'ho neanche tanto alto, il palco ancorato, però ogni tanto già flette, un po' di movimenti, oscillazioni già ci sono. E quindi anch'io ero un po' preoccupato. Infatti lo sei sul tetto per abbassarlo e poi ho detto vabbè, non lasciate il tetto perché metteva il piovere a fare e quindi non faceva neanche a salire sul tetto, già c'era un passo, non è che la faceva molta strada, però era un po' un problema, troppo vento e coso, e ho lasciato stare, vabbè, quello che succede. Ma io ho messo quattro tiranti in corda al palo per dargli un po' di stabilità, e l'antenna era a rischio, ma è molto fine rispetto a quella che era la Mantova. Pensa che tutta l'antenna, nonostante sia 6,20 m, pesa 1,5 kg, per cui non è grossa, anche la parte più grossa in basso, perché poi va ad assottigliarsi. Però evidentemente più fine è meglio tagliare aria, perché più grossa è e più fa vela. Ci sono un pro e contro. Io stesso mi sto parlando con Claudio poco fa, non so se hai sentito, ma sei al telefono. C'avevo lo stesso la Game Master, cavolo, qua si fletteva, come tirava il vento, si faceva bella curvatura, ma e infatti ho detto, cavolo, è sta cosa, riflette oggi, riflette domani, prima o poi ci fa piantare in affare quanto c'è, e poi il rendimento non, almeno, io quello per me qua, non rendeva come l'altra antenna che avevo prima, e quindi l'ho tolta. Un minuto di bianco che c'ho la signora di nuovo al telefono. Ehi, Anna, sono qua. Vabbè, Bobolino, dove sei? È già andato Bobolino. No, sono qua, è in movimento, è in macchina, però non, quella a me non sta arrivando. Adesso vabbè, c'è alza tanta di più il QRM. Mettiti al tuo dove eri ieri, dove eri l'altro giorno, poi ittiri, arrivi bene lì, e vai quattro volte al tuo. Te l'ho detto, devi metterti qualcosa di più consistente in macchina, che ci abbia un po' di potenza. Non ti preoccupare che te ne risolviamo. Infatti, devi fare così. Vabbè, Naomi, anche io ho acceso la caldaia adesso, Robanie, è partita, adesso si regola automaticamente e iniziamo a avere caldo, perché se no roga ci muori da freddo in montagna. Già adesso qualcosa qua. No, la mia è ancora anni 80 la caldaia preistorica, io devo già solamente la manopella, la chiavo io, devo comunque il rubinetto, devo mettere su acqua sanitaria, più a riscaldamento, scendere giù. Ma cos'è, idropellete con riscaldamento normale, caldaia a gas? Gasolio è questa qua, la cisterna ce l'ho dentro il garage giù, la piano terra. Che attacco la gasolio, sì, ui. Quelle non sono più a norma, vabbè, no, io c'ho il pellet adesso, fra 5 minuti qua già inizia a scaldare tutta la casa, infatti l'accendo sempre verso quest'ora, verso le 6, 5 e mezza, 6 e poi alle 10 la spengo, perché sennò tocca a mani che gocci. Si sente i gocci? Quest'anno qua è triba per il tuo riscaldamento. No, anche se gli infissi sono buoni, c'è l'opin infissi e tutto, quello sì, però allora mi ha fatto tribolare anche qualche settimana fa questa caldaia. E di quelle vecchie c'è il bruciatore fuori l'arriello, che poi c'è il termostato al lato, se la vedi è preistorica. Che roba è importante che faccia caldo sotto la foto. Dimmi a tu. Piano piano sto salendo. È via Milano, sì. No. Se eri via Milano già ti sentiva Daniele. Sono qua, sono capo Rue. Sto salendo qua a Ban, Non so la Perugia, non ti sente Daniele, in verità. Ma sei arrivato al centro ecologico? Ora no. Non lo senti Daniele Antonio? Sì, adesso lo ascolto molto meglio. Sicuramente adesso lui riuscirà ad ascoltarmi meglio di prima. È soltanto che arriva un appello di QRM, lì ci vorrebbe un aiutino, sarebbe andato alla grande, anche di pochi watt. E adesso già gliel'ho trovato io, solo che ad Alghero, capito? C'è quell'amico nostro. Devo portarle un connettore per accendere un president che l'ha perso, e lunedì glielo compro da Fusaro, quello a due buchi più uno, quello piatto che usiamo là, quello della LA 48, e così le ritiro questo lignaretto ad Antonio e glielo do, capito? Chiaro, almeno così arriva, ascoltiamo anche dalla macchina. Perché qua un po' si alza, un po' si abbassa il QRM e la macella. E prova a vedere se mi ascolti adesso. Prova tu. 1, 2, 3, gas, mi senti? Ehi, molto meglio. Ma molto meglio, Antu. Ehi, alla grande. Può essere in macchina. Macchina sono. Questo non l'ho passato. Sta arrivando 3 come segnale la radio discretamente adesso. Adesso ci fermo, dove era ieri, dove era l'altro giorno e dovresti sentirlo bene. Non è un crack, no, lui c'è un trick e track, cioè, con 4 watt non si può pretendere. Vabbè, ne metti quel linearetino e vedrai che già vai bene. Bruno lo stesso, quando esce in macchina, non si intendeva, no, Ganchivi, adesso invece anche dentro città qua arriva fortissimo, arriva bene, e se non c'è potenza in macchina non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, vai Daniele. Si conferma, io ho fatto la prova, questo l'avevo letto, con Angelino, da casa di Angelino. L'ho sentito sino all'ingresso di Itti, dove c'è stato il cartello Itti di Canneddu, col superstar, quello modificato che c'ho io qua. Beh, 10 watt mi sembra. Quello già va bene. Non ti altro, non ti avvicina al cyber, se non attacco il drone, cazzo, ti copio la radio. Come la vini di Antonio del 20 poi? Vedi un po' se ti sente Daniele. Mi intendi, no, che? Ehi, tu sei insomma, leggermente sopra il QRM, dai. Ma uno che arriva a Fabio, adesso ci sei ritorno quasi a te, là. La radio è già aumentata adesso. A fare, no. Non truba nulla questa cosa. Devo vedere un po', devo vedere. Tanto, ma perché non ti metti il coso, quello grosso che c'hai, che usi a casa? Vai, dei 3 baracchini a casa, perché non te ne metti uno buono in macchina, di quelli che pompano? No, è troppo invasivo, capito, non voglio mettere sta roba. Ma quello qual è? Quello piccolino? Sì, yeah. Cazzo di Dio, se avessi avuto quello che aveva Pierpaolo, ragazzi, che c'era 48 modificato, guai. 87? L'87, sì. Si già pompava già. Ah, si già pompava, vero? Quando ce l'aveva nella appunto, cazzo, e poco pompava, E quello andava bene. Maracchino così ci vuole in macchina, allora usai di buoni cicafusi. Io non ne ho, sono te l'avrei dato a trattarlo. Te l'avrei dato, guarda, ad usarlo in macchina, ma non ne ho baracchini che pompano io, sono tutti baracchini vintage, capito? Però a quello lì tu le metti adesso quel 747, ti aumenta anche la radio e vedrai che secondo me fai bene. Tutto che vado bene. Vai Daniele Ditti, cambio. Cava, cava, ecchime. Sì, a tu. Ok, ma se avessimo avuto adesso quella situazione di fatto del linearetto, questo si è arrivato bene, forse è chiaro, senza problemi. Ma da casa già pompa già. No, non lo so più. Tu dici che da casa già spinge forte da casa. Ti senti? Prova tu. 3 prova. Ho detto che da casa già spinge forte. Mi ascolti? Sì, così hai detto. Da casa mia minimo arriva un segnalone. Da casa tua sì, ho sentito anche poco fa prima di entrare. Da casa arrivi bene. Il problema è in macchina. Capito? Però se stai arrivando già così, che sei già, insomma, Santiago 3, la radio 4, 3, se sei attaccato l'847, sei arrivato alla grande qua. Cappa. Aspetta, faccio un attimo di bianco, arrivo subito. Sì, yeah. Comunque, se vogliamo parlare di cose tecniche, ma tecniche a livelli alti, io stasera vado a sentire un po' di musica in sassarese al Blackstone. Con Antonio puoi parlare di queste cose? Come no? Un attimo di bianco che sono al telefono. Vai Antonio. Appa, magari ci ho potuto venire. Oh, il tuo demonio, dove vuoi andare? Ma con di la vita a che d'uno? No, saranno. Sono il gruppo Sassari Vecchio, almeno facciamo mangiandoci la pizza e cantando. Ha tirato il pane a uno, ha tirato. Suona il gruppo Sassari Vecchio e così facciamo mangiando la pizza e cantando. Ma purtroppo sarei andato io nei locali, ma mio figlio c'ha il vizio di tirare le cose e a me non mi va, perché è piccolo ancora e quindi non si rende conto. Perché c'ha questa mania di tirare le cose per far girare le persone? Cosa ne so, è minoretto, fa 3 anni. E allora è comprensibile, insomma, un bambino, e chi è che si adira o si offende? Appunto, torna a Madrid, casa San Gabino, ha colto il manino a uno a capo, sono arrabbiato, Eccoli qua, cosa c'è ancora? Arrabbiato sì, perché? No, che la voce appunto torna a San Gabino, ha colto Gabriele, ha colto il manino a uno. Antonio si intende di musica, lui tratta musica, io no, con la musica sono negato, non c'è niente da fare. Io lavoro, non sai il lavoro che faccio, mamma mia, lavorato parecchio, lavorato pure, il quarto anno che faccio. Il quarto anno che fai cosa? Che vai, che piazzi, che fai quella roba là? E lavoro con la Rock House. Quattro anni ci lavoro già. Allora già va bene. Già va bene, dai. Ok, stamattina sono andato dove eri tu a ritirarmi la bomba. Io mi seguo sempre lì, già usare. E niente, infatti. Mi stava dicendo cosa, quello che c'è, che ti conosce, ma il donato è già piantato, lo vai in macchina, e poi gli altri giochi, non lo diamo mai che c'è a botti. Salutami, io già te lo saluto, non mi ricordo mai come si chiama, quello che c'è la moto, come si chiama? Franco. Franco, qui, Daniele non c'era. E mi ha detto, già lo so, ehi, già va bene, ma quando esci si vaga un poco, se no tocca stare sempre a casa, lui le piace, e perché non lo so, ce l'aveva qua, anche, già lo gioco. Ma a casa tua tu c'hai l'antenna che avevi in deposito? No. C'ho la, come quella di Pomponio, come quella che abbiamo un po' tutti. Ah, ho capito. E quella che avevi in deposito dove l'hai messa? Quella lì a casa. Ah, ho capito. Vabbè. Avanti Luca. Poi rilancia Daniele a vedere se riprende. Sì, vecchio, era per una sigaretta. Riprendi tu, guarda se c'è Luca, io sto messaggiando con un amico, già arrivo subito, sono qua Daniele. Ehi, Anca. Lu, ci sei? Cappa. Ce l'ha con Jimmy. Va bene, così per sfuggita, cos'è, musica? Break. Avanti il becco, Gianni. Sì, buonasera a tutti, dai. Sono andato solo a prendere un controllo che tu sei più lontano, non ho un controllo di segnale. Ma tanto in Italia. Radio 5 è già, buona, vabbè, chiaramente ti ascolto come si deve. Quanto? No, è Radio 5. 5 di segnale. 9. Diventato. Radio 5, segnale 9, meglio va. Ah, non ti ho sentito il segnale. Pensavo che fosse Santiago 5, mi stavo già preoccupato. Buonasera a tutti, comunque dai, io vi sto ascoltando ma mi sto pulendo la casa, quindi resto in corso. Va bene, c'è compagnia mia di Claudio, Luca, Antonio Bombo. Ciao Doppio Ruth, ci sentiamo dopo allora, buona pulizia. Io un attimino però, Daniele mi accetto, 2 minuti che sto facendo una cosa, già non ne voglio bere. Avanti Luca, riprendi e parla. E io sono qua in attesa di fare ora, perché stasera abbiamo una rimpatriata di tutti i cugini dalla parte di mamma. Cugini che non ci vediamo mai.